tempo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato. Allora, oggi sono in studio momentaneamente da sola, ma so che arriverà un sacco di gente dello staff, perché comunque ovviamente non possono lasciarmi sola un attimo a riflettere, a pensare alle cose serie che succedono in questo mondo malato. E quindi, beh, insomma, da un lato sono molto contenta che vengano ad allietare questi miei momenti di riflessione, ma dall'altro niente, toccherà fare una puntata leggera e giocosa. Adesso vediamo, non ho capito bene la mascotte che cos'ha che ha da dire. In questi ultimi giorni stiamo degenerando, siamo verso la fine dell'anno scolastico, quindi ovviamente tutti i nostri cuccioli degenerano e sono stanchi, ma comunque anche gioiosi di affrontare un'estate di riposo e di grandi cambiamenti, perché insomma è un'estate di quelle di crescita che ti portano a settembre a scuola con nuove sensazioni e come tutti gli anni, quindi non vedono l'ora di godersi questo momento. Detto ciò, come faccio io, finché sono qua da sola, a pensare a una puntata leggera con tutto quello che sta succedendo? Cioè, ragazzi, partiamo dal piccolo, ok? Bologna, quartiere Bolognina, XM24, partiamo da lì. L'XM24 io credo di non dover più spiegare che luogo fosse e quale contenitore culturale fosse quando esisteva. Era veramente fucina di idee, diciamo, per non andare troppo oltre, insomma, un centro dove si poteva fare cultura, politica, socialità, era coinvolgente per il quartiere e soprattutto per chi il quartiere lo voleva vivere realmente. Parliamo del quartiere La Ville, Bolognina, quindi insomma subito dopo il ponte della stazione c'era un'oasi felice fino al 2019. Poi l'amministrazione pubblica ha deciso di sgomberarlo, riprendersi gli spazi per fare progetti loro, e il progetto in questione è un co-housing che adesso sta prendendo forma e che, diciamo, questa struttura completamente bianca in mezzo a Via Fioravanti sta iniziando le sue nuove attività, la sua nuova vita, e quindi c'è stato fatto un bando pubblico dedicato a chi, visto che poi noi giustamente dedicato, dedica a chi è dedicato l'XM, dedicato ai nuovi attivisti, chiamiamoli, non lo so, sto cercando di rimanere calma e di non sproloquiare, perché non è facile per chi ha vissuto l'XM24 vedere questa nuova vita che avrà. Quindi questo bando pubblico è stato deciso e fortemente voluto dall'amministrazione comunale attuale, praticamente ha una connotazione molto circoscritta, ecco, diciamo, nel senso che potevano partecipare al bando persone con un passato di attività sociale o comunque, ecco, chiamati attivisti, con diverse tipologie di esperienze, quindi dal campo sociale al campo ambientale. Diciamo che insomma abbiamo letto diverse volte il bando, abbiamo riflettuto approfonditamente sul da farsi e abbiamo lasciato il passo a questi attivisti, che poi ci piacerà andare a conoscere, perché dovranno fare anche delle attività pubbliche aperte alla cittadinanza in quello che presumo io era lo spazio della sala grande dell'XM24, perché presumo sia lo spazio adibito a queste attività pubbliche. Ci piacerà andarli a conoscere, ma soprattutto vedere le loro facce, che presumo saranno conosciute e alquanto note tra gli attivisti bolognesi. Speriamo e ci auguriamo che le persone che vinceranno il bando, dopo aver fatto, come richiede poi l'amministrazione pubblica, un percorso comune, perché funziona così, questo bando, hanno selezionato un numero di persone, queste persone parteciperanno a un laboratorio e poi verranno ulteriormente selezionate per l'assegnazione degli spazi. Sono appartamenti dedicati alle famiglie, ma anche ai singoli. E quindi spero che il gruppo operativo che andrà a vivere questo luogo saprà veramente farlo rinascere. Non possiamo commentare ulteriormente perché c'è stata veramente una riflessione profonda su quello che è successo dietro questo spazio. Preferiamo commentare quando avremo visto e toccato con mano quello che lo spazio che una volta era XM24 diventerà. È stato immortale, tra le cose chiare del mio codice morale, niente resta uguale, ecco il nuovo assalto chiave per salire, sale in cima, si avvicina a merda Roma, sono ancora solo a Roma e la divoro, il mio ruolo l'ho spacciato dall'inizio solo, mai cacciato lingua per leccare un culo, sono nato vivo e clandestino, salgo al di là del mio destino, segnato di anonimo dannato, il nulla digerisce tutto, e più sei vigliacco, più rinunci e più stai sotto, uno spavento, assalti spacca ora, il mondo non fa poi paura, la mia profezia si autoavvera, il positivo comanda il negativo, lo deve, troppo tempo che non rido bene, troppo dolore, troppo amore, germoglia la mia guarigione, guardo in faccia meglio il senso dell'orrore, mi prendono alle spalle nella notte, se non combatto, sarei venuto qui per niente, se perdo, perdo per me stesso, perdo per la voglia di fuggire via da ogni posto, assalti frontali, nella notte, questa storia avanza, pazzi di speranza, dalle leggi della sorte, il tempo della vita, nel vento della morte, sogni profondi, brillano negli occhi di lupi affamati, che scendono dai boschi esclusi, irregolari, la coscienza parla, di una coscienza come arma. Assalti frontali, nella notte, questa storia avanza, speranza, banditi, dalle leggi della sorte, il tempo della vita, nel vento della morte, sogni profondi, brillano negli occhi di lupi affamati, che scendono dai boschi esclusi, irregolari, la coscienza parla, di una coscienza come arma. Assalti frontali, banditi, e qui non arriva nessuno, quindi rimaniamo a parlare di cose serie, finché la leggerezza dei nostri giovani non invaderà il nostro studio. Abbiamo parlato di XM24 Bolognina Bologna, ci allarghiamo un po' e andiamo a prendere tutta Bologna e il bacino di utenza anche della provincia, quindi parliamo un attimo di quello che è successo negli ultimi tempi in città, senza sembrare troppo umarell, perché sì, un po' lo siamo e ci piace anche esserlo, ma non vorrei che saltasse fuori questo nostro aspetto in maniera preponderante. Parliamo dei rincari tiper, per esempio, no? Dal primo di marzo sono aumentati i prezzi dei trasporti pubblici. Il nostro direttore di Radici da Fujiko ha fatto una ricerca pazzesca ed è veramente avanti anni luce, perché ci ha veramente documentati nel dettaglio di quello che è successo. Tiper si è rivendicata questa campagna di aumenti come se fosse un vantaggio per tutti quanti, per i cittadini, per ovviamente l'aria che respiriamo, per la miglioria di tutto quello che è il trasporto pubblico. In realtà vogliamo solo andare a fare cassa, perché fra le varie cose che stanno succedendo in città sono stati introdotti dei mezzi nuovi che Tiper ha finanziato in parte con PNRR, ma anche con proprie risorse e ovviamente con i soldi dei cittadini. Quindi in qualche modo bisognava fare cassa. La facciamo molto breve, perché se dovessi starmi a soffermare su quello che realmente è successo nelle nostre vite nei giorni dei rincari tiper, sarebbe pazzesco, faremo 7 puntate solo su quello. Ho una documentazione veramente allucinante, cartelle e cartelle piene in computer di documentazione su questa cosa, senza contare i pensieri personali delle persone, perché io ovviamente parlando ho chiesto e le risposte sono state varie e variopinte. Non vi lascio immaginare, anzi vi lascio immaginare che cosa possa possono avermi detto i nostri meravigliosi Umarell alle fermate dell'autobus, per esempio. Quelle signore che aspettano l'autobus per minuti e minuti e minuti in più rispetto a quello che c'è previsto negli orari, quindi c'è modo di chiacchierare, come dire, c'è modo di lamentarsi un pochettino assieme del servizio tipper. Adesso poi ovviamente incentivato dall'altra problematica cittadina che ci fa sembrare un po' Umarell, che sono i cantieri per il tram. Quindi, che dire, forse è meglio se in questa puntata mi fermano e arrivi qualcuno a portare un po' di leggerezza. Inferno! C'è qualcuno? Qualcuno è arrivato a portare un po' di leggerezza in questo studio, cortesemente? Non mi sembra, sento troppo silenzio. Di solito quando arriva qualcuno in studio, diciamo che si fa riconoscere. Allora, qua abbiamo... Vado avanti perché cosa devo fare? A questo punto la leggerezza arriverà quando arriverà. Nel frattempo mi sono capitate sotto mano anche le nuove indicazioni del 2025 per la scuola dell'infanzia per il primo ciclo di istruzione, materiali per il dibattito pubblico. Sono 153 pagine che abbiamo letto veramente con pochissima gioia, ma veramente molta poca gioia, perché sono i nuovi pensieri educativi didattici per la scuola pubblica. Parliamo appunto di scuola dell'infanzia e scuola primaria. Ci sono delle commissioni che si sono riunite, che hanno fatto degli studi preliminari, e questi studi preliminari vanno a vedere un primo studio, una mappatura ricognitiva sinottica dei documenti nazionali che delineano gli indirizzi curricolari scolastici. Poi, secondo studio, abbiamo avuto un'analisi dei notevoli cambiamenti intervenuti in ambito educativo, economico e sociale. Un terzo studio ha guardato una rassegna dei nodi cruciali emergenti dalla ricerca e dal dibattito pedagogico e non solo sullo stato dell'arte e delle possibili prospettive migliorative delle indicazioni nazionali per il curriculum dei percorsi formativi. Allora, queste 153 pagine sono delle proposte fatte appunto da queste commissioni sulle varie materie scolastiche e sul come potrebbero essere i cambiamenti di insegnamento all'interno delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria. Sono proposte allucinanti agli occhi di tanti di noi che si occupano anche di scuola e che comunque con la scuola hanno una relazione importante da tanti anni. Per chi è operatore scolastico e genitore, è un testo fortemente etnocentrico che tende alla prescrittività dei contenuti e non si preoccupa delle differenze sociali, culturali e di genere. Promuove invece un'idea di libertà come semplice accettazione delle regole che dimentica la dimensione relazionale del sapere e dell'apprendimento, che rappresenta una chiusura a tutto ciò che si ispira al dialogo interculturale e al pensiero critico. Una tale massa di contraddizioni e aspetti regressivi non permette un atteggiamento emendativo, poiché la correzione di qualche passaggio o paragrafo non potrebbe rendere accettabile il testo. Abbiamo dato un'occhiata come genitori e come comitati e associazioni dei genitori. Effettivamente è veramente importante quello che stiamo valutando e ragionando insieme. Sulla pedagogia, la visione dei bambini e ragazzi che si propone è quella di soggetti sostanzialmente incompetenti, fragili e dei quali si evidenziano soprattutto i comportamenti problematici e ai quali l'insegnante eroga delle conoscenze, semplicemente. Sulla storia è stato scritto in questo documento che si intende cancellare dal curriculum la storia, intesa come ricostruzione scientifica del passato, e sostituirla con un racconto che la storiografia conosce come biografia della nazione e che annovera da tempo fra le tradizioni inventate. Il carattere globale della composizione delle nostre classi viene mortificato con un curriculum asfittico di apologhi risorgimentali e dell'antica Roma e di richiami alla superiorità dell'Occidente e dell'identità cristiana. Allora viene snaturato tanto di quello che nella scuola pubblica è stato fortemente voluto e conquistato negli anni. Quindi secondo noi è un documento grave che è in discussione e che ovviamente non verrà sottovalutato assolutamente. I comitati genitori a livello nazionale si stanno muovendo e speriamo di riuscire a far sentire la nostra voce veramente con forza. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... In studio, mascotte, benvenuta. Stai mangiando? Mascotte, la mascotte mangia, strano. Comunque, benvenuta. Allora, mascotte, oggi doveva essere la puntata leggera, no? Piena di leggerezza, di spensieratezza e tutto quanto. E invece abbiamo parlato di argomenti pesantissimi fino adesso perché mi avete lasciato da sola in studio. Cioè, Mascotte non si lascia da sola Eki in studio. Vabbè, lei mangi, Mascotte, ok. Però faccio una pausa tra la masticazione. Mi dica una cosa leggera, siamo quasi addirittura d'arrivo con la fine della scuola. Sì. Quindi sta per arrivare l'estate, le vacanze estive, il cambiamento, perché poi quando si torna a scuola a settembre... Sono gabbiano? Che c'entra, Mascotte, scusi, gabbiano o non gabbiano? Gabbiano, che... gabbiano. Ah, fa così il gabbiano? Gabbiano. Vabbè, senta, Mascotte. Piccione. Ok, mi è piaciuta questa interpretazione... della spensieratezza, gabbiano piccione, lei vede in questo modo insomma la leggerezza? No. Ok, no, perché per fare una puntata in la leggerezza... La leggerezza è cibo. Ma ecco, dipende poi che cosa si mangia. Dipende poi in che senso leggerezza, perché a me fa male il colesterolo. Colesterolo a 11 anni, Mascotte? Vabbè, senta, e chi? Ma lei che domande fa? Ma che ne devo sapere io, signora mia? Appunto, ho fatto gli esami del sangue ieri, dai, non ho mangiato... Da quando mi sono svegliata non ho bevuto, non ho mangiato e non li ho fatti perché non mi hanno fatto, mi hanno chiesto: hai mangiato? No. Hai bevuto? No. Ti sei alzata? E non me li hanno fatti fare. Ma Mascotte, ma senta, ma sai che questi sono discorsi che fanno di solito dai 75 anni in su, si raccontano gli esami del sangue, i controlli, queste cose qua. Comunque, cioè, perché lei dice queste cose? Lei ha una grande creatività, proprio ha una creatività enorme, perché la Mascotte non ha mai fatto gli esami del sangue in vita sua. Quindi non si capisce bene da dove sia uscita questa sua storia sugli esami del sangue. Forse ha parlato con delle 75 anni. Con te? No, io non ho 75 anni. Lei 75 anni, è vecchissima. Beh, allora me li porto da Dio. Andate su lei, vedete? Andate su lei, cosa vuol dire, Mascotte? Scusi. Andate su lei e vedete quanti anni ha. Cioè, sulla provate mia pagina, provate sul indovinare. Mio profilo social. Provate a indovinare. Lo posso dire io quanti anni ha? 80 anni. Non me ne vergogno. Si vergogna, adesso dirà che ne ha la metà, ma ha paura di dirvelo. Non me ne vergogno della mia età. Ha 80 anni, fidatemi di me. Sì, non lo sa neanche dire, fidatemi, si dice. Come si dice, fidate... Ah, vi, perché l'ho detta io la parola lunga. Ah, Mascotte, comunque non c'è niente da vergognarsi o imbarazzarsi dell'età che si ha. Io sono molto contenta e gioiosa lei della mia età. Lei ha 80 anni. E comunque, se ne avessi 80 realmente, li porterei veramente molto bene. Lei, Mascotte, invece, se va avanti a mangiare così, non mi lascia neanche un po' di pranzo. Quindi le pregherei cortesemente di mettere da parte una schiscetta per me e lasciarmi del cibo. Ecco, no, è andata a rubare anche dalla mia schiscetta, quella che mi ero messa da parte io. Niente, si è mangiata tutto. Mascotte, ti leggo la storia del giovane gambero di Gianni Rodari, ok? Sì. È bellissima questa storia, io ci sono cresciuta, il mio papà me la leggeva sempre. Se ne arriva al punto. Vabbè, comunque, c'era una volta un giovane gambero. Ah, ok, fico. Un giorno, mentre camminava sul ruscello natio... Dove? Dov'è? Che cosa? Il natio. In che regione? Dov'è? È italiano? Ma dai, ma Mascotte! Ma dai, Mascotte! Ma mi sento Caccamo! Natio vuol dire il luogo in cui sei nato! Ok. Non è un paese! Vabbè. Ah, Mascotte! Adesso ci ascoltiamo i nostri ragazzi che suonano un po' nel nostro studio qui accanto, hanno messo su dei brani oggi. Stanno suonando, stanno strano questa cosa. Ci hanno portato un altro po' di leggerezza. Evviva! La primavera e la leggerezza! La primavera io ballerò e i fiori raccoglierò. Mascotte, l'ha scritta lei questa canzone? Sì. E ballerò con la bella e la bestia. Ma cosa c'entrano la bella e la bestia? E poi mi addormenterò sul divano Hakuna Matata. Ah, molto bene, molto bene. Grazie, Mascotte, andiamo ad ascoltare i nostri ragazzi. Thank you. Allora, salutiamo i nostri ascoltatori, siamo arrivati addirittura d'arrivo. La pesantezza dell'inizio della puntata è servita tantissimo, perché devo dire che mi hanno scritto degli ascoltatori dicendo parliamone di più, no, di questa pesantezza, quindi della Tipper, del co-housing 24, insomma, soprattutto anche mi hanno scritto due mamme dicendo hai fatto bene a parlare di sta roba della scuola, di quello che vogliono fare. Insomma, lei mascotte non lo sa perché non c'era, ma abbiamo parlato di varie robe non proprio leggere. Vabbè, che approfondiremo nelle prossime puntate senza la mascotte, perché tanto la mascotte, diciamo che ragazzi, mangia, la mascotte mangia. Dai, reghe, ma non posso mangiare. No, mascotte lei può mangiare. Ma sto facendo l'accento laziano. Laziano? Ma mascotte, ma scusi, la smetta subito, che prima già con Gianni Rodari il natio io dov'è? Ma non ho parole, mascotte, non ho parole. No, così per riprendere un attimo sempre Gianni Rodari, le comari, le rane che sono comari. È la loro specie, capite con chi ho a che fare io? Le comari sono una specie di rane, perché Gianni Rodari scrive nel Giovane Gambero, questa storia tratta dalle favole al telefono, il giovane Gambero percorrendo il fiume Natio, e già Natio mi ha chiesto dov'è, ma questo già lo sapete, incontra delle rane, un gruppo di rane, che sono delle comari, e lei mi ha chiesto, è una specie, no? È una razza di... che poi, specie o razza, mascotte, come specie? La razza dei cani e dei gatti. Vabbè, smetto di ringhiare e di lamentarmi. Mascotte deve studiare un pochettino meglio scienze, ma comunque andiamo avanti. Le comari per lei erano una razza di rane. Facciamo una cosa seria ma piena di leggerezza. Salutiamo i nostri ascoltatori. Ciao! Ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, sempre su Radio Città Fujiko. Con quale trasmissione, mascotte? Dai. Dedicato. Alla prossima settimana, ciao! Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Hai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più, a chi non ha uno specchio.